che se ti t'arrugenti per il mese, ti resti a quello gran succido che te. Ti mentendi se t'ho dico anche in senese, la chia porta pagna da via qui. Sempre savio che in cervello nutiche, mi pensava almeno che t'aviesci un po' di dignità. Oh, a mio capio che manco sento dice un fre, ti t'accorsi che di tempo già sto sempre più resti.